Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Buonasera da Sebastiano Barisoni. Dunque, allora, i temi di cui ci occuperemo, già ve ne hanno parlato i nostri GR dei dati diffusi oggi dalla Corte dei Conti. La cosa più impressionante, oltre alla denuncia, che poi più che denuncia è una sottolineatura dell'alto livello di corruzione che regna nel nostro paese, la Corte dei Conti ha rilevato come nella pubblica amministrazione esista ancora una spesa per consulenze che oggettivamente non sempre è giustificabile, se vogliamo metterla in questo modo. Ha detto addirittura la Corte dei Conti che c'è una cappa di silenzio che è calata sulle consulenze della pubblica amministrazione. Ne parleremo in apertura. Ricordo che nel 2007 il Ministero complessivamente della funzione pubblica aveva un dato che indicava una spesa di 1 miliardo e 300 milioni per 270 mila incarichi di consulenza nel paese. Il problema è che, siccome non tutte le amministrazioni locali forniscono i dati, la stima che faceva lo stesso Ministero 2 anni fa era di una spesa intorno ai 2 miliardi e mezzo l'anno e 500 mila incarichi assegnati. Ora, le consulenze in alcuni casi sono molto importanti, sono fondamentali quando sono perizie, quando sono consulenze che danno valore aggiunto, però immaginare che nel paese vi sia bisogno per la pubblica amministrazione di 500.000 di consulenze all'anno, visto che già i lavoratori della pubblica amministrazione sono 3 milioni e 600 mila, beh, insomma, è un po' difficile immaginare che siano tutte necessarie. E il problema è serio, anche perché se si vuole discutere di federalismo fiscale è chiaro che queste consulenze sono quasi sempre assegnate dagli enti locali. I comuni hanno 190 milioni di spesa, la sanità 135, l'università 63, le province 55. Ne parleremo in apertura, perché poi, ripeto, le denunce della Corte dei Conti sono anche più pesanti. Non c'è trasparenza in ogni agire della pubblica amministrazione, non sempre vi è trasparenza. L'Italia non è un paese di corruttori, ma è uno dei paesi in cui si registra il tasso più alto di corruzione nella pubblica amministrazione, per cui il tema è economico, ma in generale oserei dire civico e di buon funzionamento della macchina pubblica. Poi passeremo ai mercati finanziari, mercati che dopo un avvio morbido, soprattutto a Milano, hanno preso la strada del ribasso. 1,5% l'S&P MIB, MIBTEL meno 1,20, Parigi meno 0,2, Francoforte invariata, Londra più 0,2, l'America guadagna 0,5%. Cos'è che sta penalizzando Milano più delle altre borse? Beh, Seat pagine gialle, meno 5,90%, continua andare male il titolo dopo l'abbandono del numero 1 Maiocchi. Autogrill meno 5,12, Ubibanca meno 5,1, Telecom meno 4,6. Anche qui oggi, durante la presentazione del piano industriale di Pirelli, Marco Tronchetti Provera ha definito cedibile la quota in Telecom. Vedremo poi se per questo motivo che il titolo perde così tanto. E a questo proposito vi anticipo che avremo anche un approfondimento sul piano industriale di Pirelli, così come su quello di Edison. Continuiamo con i titoli. Banco Popolare si diceva meno 3,1, Prismia meno 3, Lottomatica pure, Buzzi Unico è meno 2,6 come stima Microelectronics, Atlantia meno 2,5, il 2,2 lo perde sia la Popolare di Milano che Pirelli, che Luxottica Generali cede il 2% come Intesa San Paolo. Chi guadagna? Fiat l'1,3%, Italcementi l'1,3%, Impregilo più 1,1% come Fondiaria Assai, A2A più 1%, Tenaris più 1%. Mediaset 0,5% di rialzo. In assoluto tra i peggiori c'è AXA meno 9,81%, tra i migliori titoli sottili Viaggi del Ventaglio più 10%, Eutelia più 13,6%. L'ultima cifra prima di passare alle notizie in breve è il 349-238-6666, che è il numero per i vostri sms. Tratteremo quindi di pubblica amministrazione, consulenza e corruzione, poi la borsa, i dati e il piano industriale di Pirelli, il dato e il piano industriale di Edison, con l'aggiunta di una notizia che oggi è apparsa su tutte le agenzie, il crollo nei consumi elettrici, allora, e nei consumi di beni energetici. Perché è importante? Perché di solito, insomma, a rigore di logica, quando c'è un calo così forte nel consumo di energia elettrica, è per stragrande maggioranza, nella stragrande maggioranza dei casi, da imputarsi al calo nell'attività produttiva, cioè le industrie che, lavorando meno, nel caso di gennaio hanno prolungato le festività, consumano meno energia elettrica. E questo è un indicatore che si usa in tutti i paesi, si usa anche in Cina per capire come va l'economia cinese, dando per scontato che di solito l'utilizzo privato, quello di noi cittadini, tenda a non variare così tanto anno su anno, cioè gennaio 2008 su gennaio 2007, ci può essere un mese un po' più freddo, ma non è da lì che arrivano i grossi cambiamenti, arrivano dal se rallenta la macchina produttiva. E che vi sia stato un rallentamento del settore industriale lo dice oggi non solo Terna, che ha diffuso i dati sul consumo a gennaio, meno 8,5% nei consumi elettrici a gennaio rispetto a gennaio del 2007, e era un gennaio anche freddo, quindi non possiamo immaginare che fosse dovuto alle temperature. Si tratta del calo più brusco, questo meno 8,5% dal 1975, quindi in piena epoca di shock petrolifero, di depressione economica, di tensioni anche a livello internazionale. Poco dopo è arrivato anche il dato dell'Unione Petrolifera Italiana, che ha visto calare i consumi di gas sempre a gennaio, di gasolio, scusatemi, di petrolio, sempre a gennaio, dell'8,4%, un dato praticamente identico quasi a quello di Terna. E anche qui il calo dei consumi di carburanti è da attribuirsi alla crisi, al fatto che le persone utilizzino magari un po' meno la macchina, ma soprattutto al minor utilizzo a minor transitare delle merci, per cui partono meno camion e si consuma meno gasolio. La benzina infatti ha avuto un calo, ma leggermente inferiore, del 7,2%. Il gasolio da autotrazione, ecco appunto il dato che riguarda l'andamento economico di un paese, meno 8% il gasolio consumato dai tir. È difficile immaginare che abbiano risparmiato guidando solo a marce alte, il problema è che molti camion non sono proprio partiti. Adesso le altre notizie in breve. Vedo già molti messaggi sulle consulenze. Nessuno ce l'ha con le consulenze sono importanti, ci sono i consulenti, sono un profilo professionale molto importante. Si tratta di capire, perché i consulenti lavorano anche per aziende e soggetti privati, ma si tratta di capire se nella pubblica amministrazione il ricorso alle consulenze non sia un dato patologico più che fisiologico, perché 500.000 di consulenze per 2,5 miliardi di euro sono un po' tante. E poi c'è sempre il sospetto che alcune siano importanti, necessarie e assolutamente utili, altre siano scambi di favori, diciamola tutta. Comunque adesso ci arriviamo al tema, andiamo avanti con il diario di questa crisi, perché se il petrolio si mantiene a $37,9, quindi addirittura sotto i 40, e l'Euribor, il tasso interbancario a tre mesi, continua a scendere, passa all'1,98%, continuano anche le scuse, voglio dire, o lacrime di coccodrillo, le chiamano alcuni, dei grandi banchieri di Wall Street, ma non solo, anche della City londinese, che hanno, diciamo, creato questa crisi finanziaria mai vista da qualche decennio, perché i big di Wall Street si sono presentati anche oggi al congresso, mentre cresce l'arrabbiatura dell'opinione pubblica per il ruolo giocato dalle loro banche nella crisi. A poche ore infatti dalla presentazione del piano di Geithner, su cui i mercati ieri hanno reagito così male, Geithner è il nuovo segretario del tesoro americano, oggi i numeri uno di Goldman Sachs, ossia Lloyd Blankfein, di Citigroup Vikram Pandit, di Bank of America Kenneth Lewis, di Morgan Stanley John Mack e di altri grandi o ex grandi banche d'affari americane hanno raggiunto Washington con i mezzi pubblici, e questa dice lunga sull'aria che sta tirando in America e che noi cerchiamo di raccontare. Non solo i top manager di General Motors, Chrysler e Ford sono arrivati in treno a Washington, hanno rinunciato all'aereo personale, quando Citigroup ha cercato 2 settimane fa di far passare l'aereo l'aereo personale dei manager, è intervenuto lo stesso Obama dicendo: mi sembra una cosa incredibile che un gruppo che ha decine di miliardi di svalutazioni per investimenti folli effettuati voglia spendere 50 milioni di dollari per il jet per i propri manager. Ebbene, oggi questi manager sono arrivati di bianco, sono arrivati con i mezzi pubblici a Washington e le testimonianze sono state, insomma, più o meno rituali, con il classico cospargersi il capo di cenere. Sentiamo Blankfein. It is abundantly clear that we are here amidst broad public anger at our industry. Many people believe, and in many cases justifiably so, that Wall Street lost sight of its larger public obligations and allowed certain trends and practices to undermine the financial system. Insomma, Blankfein dice, è assolutamente chiaro che siamo qui perché la gente è molto arrabbiata nei confronti del sistema bancario. Le persone credono, in molti casi hanno ragione, che tutte le perdite accusate da Wall Street si possono ricondurre a pratiche che noi abbiamo adottato e che hanno minato la stabilità del sistema. Dobbiamo riconquistare la fiducia della gente. Goldman Sachs è fortemente impegnata a rendere tutto questo possibile. Prendiamo molto seriamente la responsabilità per i fondi che abbiamo ricevuto dal piano TARP, quello che ha aiutato e salvato in molti casi le banche americane. Operiamo in diversi campi, noi facciamo sia gli advisor che forniamo finanziamenti, che operiamo sul mercato. Abbiamo bisogno quindi di molta liquidità. E dopo il piano, la prima tranche di fondi del piano TARP, la nostra capacità di avere liquidità è decisamente aumentata. Da quando abbiamo ricevuto 10 miliardi di dollari a partire da ottobre fino a gennaio, abbiamo realizzato i finanziamenti per 13 miliardi di dollari. Goldman Sachs has committed over 13 billion dollars in new financing to support our clients. This compares with 4.5 billion dollars in the three months prior. E questo si confronta con i 4 miliardi e mezzo del trimestre che ha preceduto il ricevimento dei fondi. In sostanza stanno dicendo i vertici di Goldman Sachs, per voce di Blankfein, con dei 10 miliardi che il governo ci ha dato, li abbiamo tutti reimpiegati, o quasi tutti, per nuovi finanziamenti. Ma le polemiche in America non si placano, perché Merrill Lynch, che diciamo è fallita di fatto lo scorso settembre, schiacciata dal peso di 37 miliardi di dollari di debiti come conseguenza di investimenti, chiamiamoli rischiosi per fargli un piacere, effettuati. Merrill Lynch, salvata poi dalla Bank of America, ossia dal governo americano, in realtà, che ha stanziato 20 miliardi, li ha girati la Bank of America, si è comprata Merrill Lynch, ora pure la Bank of America non sta tanto bene. Ma al di là di questo, si è scoperto, o meglio, lo sostiene il procuratore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, che Merrill Lynch, poco prima di dichiarare in sostanza il fallimento, avrebbe anticipato il pagamento dei bonus ai suoi banchieri, in modo da corrispondere a questi bonus prima di essere comprata da Bank of America, quando ormai gli stessi banchieri non decidevano più nulla. E sapete quanto ha anticipato di bonus? Non robetta, 3 miliardi e 600 milioni di dollari distribuiti a oltre 39.000 dipendenti poco prima di venire comprata da Bank of America, ma soprattutto anticipando questi bonus, queste che da noi si chiamerebbero premi di produttività. Non si capisce quale produttività, visto come è finita la banca, ma è la cosa grave, appunto, che sembra esserci del dolo non averli anticipati rispetto alla loro scadenza ordinaria. La crisi morde però, come abbiamo visto, anche i top manager e i miliardari. Lo fa anche in Russia. I 10 uomini più ricchi della Russia hanno perso, in seguito al crollo delle borse, degli investimenti, dei prodotti derivati, il 66% delle loro fortune. Attualmente si devono accontentare i primi 10 uomini più ricchi di 76 miliardi di dollari, quindi 7 miliardi e mezzo a testa, mentre prima della crisi erano 221 miliardi i loro patrimoni complessivi, ossia 22 miliardi a testa. E vabbè, la crisi si racconta anche così. Nel frattempo oggi l'assemblea degli azionisti di Fortis ha bocciato il piano di salvataggio della banca, che prevedeva lo sbarco di BNP Paribas nel capitale di Fortis Belgio. Anche in questo caso potrebbe precipitare a questo punto la situazione di Fortis. In Gran Bretagna la disoccupazione, dato di oggi, è cresciuta a 1.230.000 persone, il livello più alto di disoccupazione in Gran Bretagna dal luglio del 1999, e il governatore della Banca d'Inghilterra, Mervyn King, in una conferenza stampa ha detto: oggi siamo in profonda recessione. Le nostre proiezioni indicano che il livello della produzione diminuirà nella prima metà dell'anno. In questo modo la crescita economica su base trimestrale scenderà ulteriormente nel breve termine. Si tratta di uno scenario decisamente peggiore rispetto alle previsioni pubblicate lo scorso novembre. E le ragioni che spiegano questa situazione si trovano nel peggioramento dell'andamento del mercato del lavoro, nella crescente incertezza che circonda i consumi, nella riduzione delle spese in investimenti da parte delle aziende e, in ultimo, nella debolezza della domanda mondiale che comporta una diminuzione delle esportazioni. Ancora due notizie, dati di bilancio. Peugeot, 11.000 uscite volontarie in Europa nel 2009. Questo per il gruppo Peugeot Citroën, che ha chiuso il 2008 con un rosso da 343 milioni e quest'anno ridurrà la propria produzione tra il 20 e il 30%. Peugeot Citroën. Ancora la Pirelli oggi, poi ne parleremo ampiamente, diffusi dati, nessun dividendo per il 2008. Telecom, la quota che ne resta in Telecom definita cedibile, non cedibile invece la quota di Pirelli in Mediobanca e nel gruppo Rizzoli, ma soprattutto il piano triennale prevede la riduzione di 1.500 dipendenti della parte pneumatici in Europa occidentale e di altre 800 persone in Pirelli Real Estate, al netto delle cosiddette esternalizzazioni già previste. Attualmente i dipendenti di Pirelli sono 1.470 e quindi 800 persone, siamo più della metà. Va bene, si fa per dire, ma insomma andiamo avanti con le altre notizie. Saipem, buono l'utile, sale 900 milioni, il dividendo a mezzo a 55 centesimi di euro. Edison, crescono del 33% i ricavi e conferma il dividendo a 5 centesimi per azione ordinaria. Indesit invece vede la crisi pesare sui ricavi, meno 7%, e non distribuirà dividendo. Adesso partiamo con il primo tema. Visto il livello di questa crisi, è ovvio che scoprire che sulle consulenze della pubblica amministrazione c'è una giungla fa arrabbiare. Vedo già molti messaggi. Sì, avete ragione nel scrivere che con questa crisi per una delle prime volte non perdono solo le fasce più deboli, sta facendo bruciare capitali anche a tutti i grandi manager e i miliardari che avevano investito soldi, penso solo al caso Madoff. Ma insomma andiamo sul primo tema. Questa mattina, inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. E allora il Presidente Tullio Lazzaro dice: con la congiuntura negativa, con la recessione in corso, occorre ridurre la spesa, attenzione però a non tagliare in maniera indiscriminata le voci di spesa. È dubbio che si siano avuti buoni risultati dai famosi tagli lineari, perché i tagli lineari, noi abbiamo constatato e abbiamo detto in tante analisi fatte al Parlamento, che in sostanza poi creano debiti fuori bilancio, perché le amministrazioni, siccome tutto sommato sono pur costrette poi a funzionare, che cosa fanno? Riconoscimenti di debito oppure spostano i pagamenti nel tempo. Questo crea non solo anomalie dal punto di vista della disciplina normativa dei bilanci, ma crea debiti sommersi che a volte sono anche molto rilevanti e che è praticamente impossibile quantificare in partenza. Quindi è una distorsione notevole. Allora cosa si dovrebbe fare o si potrebbe fare? Un'analisi attenta voce per voce dei singoli bilanci, delle realtà gestionali sottostanti ai bilanci, e intervenire là dove necessario. Oggi come oggi io non vedo altro sistema. Ancora per quello che riguarda la spesa della pubblica amministrazione, occorre, per avere una pubblica amministrazione più agile, non solo tagliare ma avere anche adeguate risorse in uomini e mezzi. Se manca la trasparenza è a rischio la stessa vita della democrazia, questa è una pubblica amministrazione. E per quello che riguarda i due passaggi più così, più ripresi, il presidente della Corte dei Conti Lazzaro ha detto no, non siamo un paese di corruttori, ma il nostro tasso di corruzione è tra i peggiori. Parlare di un paese di corrotti e corruttori mi pare un po' esagerato. Che ci siano dei fenomeni di corruzione è vero. Non è una scoperta mia il fatto di dire che secondo le statistiche internazionali noi siamo a uno degli ultimi posti per quanto riguarda la diffusione della corruzione. Sono statistiche ufficiali, consultabili da chiunque. E purtroppo, sottolineo purtroppo, bisogna prendere atto di questa realtà. La lotta alla corruzione, guardi, si fa in tanti modi, si fa sul campo del codice penale, la guardia di finanza, benemerita e quant'altro, ma si fa, e torniamo da capo, soprattutto nel controllo. Perché? Perché la corruzione, per poter allignare, ha bisogno di zone d'ombra, ha bisogno che non si faccia luce su ciò che fa l'amministratore. Quando c'è la luce, quando c'è il riflettore, per sua natura la corruzione diventa molto, ma molto più difficile. Il controllo, per sua natura, facendo chiarezza, rende perlomeno difficile fenomeni di corruzione. Il maggior controllo simmetricamente comporta una diminuzione del ricorso al codice penale, perché è chiaro che se non c'è il controllo è molto più facile per chi voglia delinquere. Comunque la Corte su questo dà il suo apporto come meglio può. Ho firmato una convenzione col ministro Brunetta, che in seguito alla riforma adesso è diventato titolare della lotta alla corruzione, che prima faceva l'alto commissario, proprio per uno scambio continuo di dati, di notizie, per collaborare al meglio possibile alla lotta alla corruzione. Altro passaggio, nel frattempo ringrazio perché ci ha raggiunto in collegamento un collega, autore assieme a un altro collega di un libro che ha fatto epoca, anche se di un paio d'anni fa. Mi riferisco a Sergio Rizzo, che con Gianantonio Stella firmò l'ormai celeberrimo La Casta. Buonasera Sergio. Buonasera a tutti, buonasera. Perché insomma, quanto a consulenze, sprechi della pubblica amministrazione, voi siete andati avanti e lo fate quasi settimanalmente sulle pagine del Corriere della Sera. Vorrei farti ascoltare però l'altro passaggio, quello che riguarda proprio le consulenze, sempre nella denuncia del Presidente della Corte dei Conti. Ci sono stati passaggi in cui, e momenti in cui lo stesso Lazzaro ha detto: c'è una cappa di silenzio sulle consulenze della pubblica amministrazione, una cappa di silenzio che non aiuta i consulenti nominati da enti pubblici solo agli incarichi il cui compenso supera i 290 mila euro l'anno, ovvero lo stipendio annuo del primo presidente della Corte di Cassazione. Beh, insomma, rientro in quelle istruzioni discutibili della circolare del gennaio 2008 con cui il Ministero della Funzione Pubblica ha detto: ma al massimo questo è il vostro tetto. Il Presidente della Corte dei Conti fa notare che è un tetto già alto. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa parte della relazione della Corte dei Conti in cui si è tornati sulle consulenze, tant'è che il Ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta ha dichiarato: beh, faremo degli approfondimenti per verificare se esistono veramente zone d'ombra sulle consulenze. Allora, Sergio Rizzo, diciamo in maniera molto chiara, le consulenze servono, hanno scritto anche in questo momento molti consulenti, ci mancherebbe, sono professionisti, però nel 2007, secondo il Ministero, erano state spese, sulla base dei dati forniti dalle pubbliche amministrazioni, 1 miliardo e 300 milioni con 270 mila incarichi. In realtà lo stesso Ministero ritiene che la spesa sia molto più alta, perché molte amministrazioni locali non forniscono i dati, e si aggiri sui 2 miliardi e mezzo con circa 500 mila incarichi. Nei primi sei mesi del 2008 i dati forniti dal Ministero parlano di 600 milioni di euro di consulenze per 176 mila incarichi, quindi siamo sempre lì. A fare maggior ricorso i comuni, 190 milioni, poi la sanità, l'università, le province e le scuole. Poi c'è il caso di Milano, in cui la Corte dei Conti ha citato in giudizio la giunta Moratti per aver assunto 23 collaboratori esterni pagati complessivamente 9 milioni di euro l'anno senza i requisiti dovuti di professionalità, e poi andremo anche su altri casi. Ma insomma, le consulenze sono diventate un elemento patologico, oppure a tuo avviso, mancando alcuni corpi tecnici dello Stato, poi lo stesso Stato deve, come pubblica amministrazione, rivolgersi a soggetti esterni? Secondo me sono diventate un elemento patologico perché se è vero che innegabilmente mancano delle figure professionali nella pubblica amministrazione, è anche paradossale che quando mancano i consulenti certi diciamo gangli nevralgici vadano in tilt. È il caso per esempio del debito pubblico o di altre funzioni all'interno del tesoro. Questo perlomeno è quello che dicono loro, con l'indagine che la Corte dei Conti ha aperto sulle consulenze, di cui forse voi avrete letto sui giornali, sulle consulenze date dal Dipartimento dello Sviluppo e da altri dipartimenti del Ministero dell'Economia negli ultimi anni, che ha comportato poi il blocco di questi incarichi temporanei, praticamente l'attività di interi uffici del Tesoro si sarebbe paralizzata. Ecco, secondo me questa è una cosa veramente assurda, perché cosa significa? Che senza i consulenti la pubblica amministrazione non può funzionare? Non possiamo sapere quanto è il fabbisogno dello Stato se non abbiamo i consulenti che fanno i conti? Non possiamo sapere come bisogna privatizzare un'azienda perché non abbiamo le figure professionali al Tesoro in grado di fare, ragionare su un problema di questo tipo? Aggiungo un altro aspetto, gli aspetti legali. Le società pubbliche hanno tutte quante degli uffici legali nutritissimi. Io ricordo che qualche anno fa si parlava alle Ferrovie dello Stato qualcosa come 400 avvocati assunti con il contratto a tempo indeterminato, intendiamoci. Lo stesso avviene per esempio anche all'INPS, eppure nonostante questo gli incarichi di natura legale vengono tutti affidati a studi esterni, o quasi tutti affidati a studi esterni naturalmente. Questo è un fatto che deve far riflettere. Secondo me non ce la possiamo cavare dicendo siccome non abbiamo le figure professionali adatte prendiamo i consulenti. Non va bene questo, bisogna che ci sia una riflessione su come funziona la macchina della pubblica amministrazione e soprattutto se ci sono delle regole sbagliate che si cambino queste regole. Sì, allora, fermo restando che è legittimo, anzi è doveroso delle volte ricorrere a un consulente se ci sono degli aspetti tecnici, noi pensiamo anche alle perizie, ma non solo, un apporto, una voce terza che guardi da fuori, insomma, questo va benissimo. Il problema è che non si può immaginare che con 3 milioni e 600 mila lavoratori della pubblica amministrazione, di cui il 51% nello Stato, il 42% negli enti locali, e con un costo medio per cittadino di 2.660 euro, quindi 600 euro più a testa che in Germania, 500 euro a testa più che in Spagna, mentre più di noi si spende sia in Gran Bretagna che in Francia, 1.000 euro in più, quasi. Sì, ma con risultati. Ma con, appena, diciamo. ci sto arrivando. Ma non è immaginabile che veramente manchino così tante figure professionali, tecniche, corpi tecnici si chiamavano della burocrazia una volta, da necessitare di 500.000 consulenze in un anno. Perché, voglio dire, il comune potrà avere anche un problema su un aspetto specifico, ma se tu inizi a subappaltare fuori la maggior parte del lavoro, ci si chiede che cosa fai fare ai tuoi dipendenti, punto primo. Basta andare dentro i ministeri e farsi un giretto e scoprire che negli uffici ci sono plotoni di segretarie, per esempio, mentre invece magari manca l'economista che è in grado di fare una proiezione del debito pubblico. Non ci potrebbe essere anche allora, mettiamolo in maniera un po' maliziosa, siccome le consulenze in alcuni casi sono necessarie, ma in molti altri casi sono anche uno scambio, perché insomma sappiamo tutti che sono 500.000 consulenze, mettiamo che la metà non siano necessarie, sono 250.000 voti, adesso se possiamo dirla in questo modo, o comunque favori resi. Non è pensabile che in realtà ci sia quasi un interesse nello smantellare alcuni corpi tecnici della pubblica amministrazione, perché poi così sei obbligato, non hai più le risorse interne, sei obbligato a appaltarle fuori e così si perpetua il giro di scambi, perché alcuni scrivono, insomma alcuni dipendenti pubblici stanno scrivendo al 349-238-6666 dicendo che per esempio nel Ministero delle Infrastrutture e Trasporti stanno smantellando la struttura di un ascoltatore benché ricca di professionalità interne, poi a quel punto quando non ci saranno più i tecnici, gli ingegneri o chi per essi, è chiaro che dovrei appaltare tutto all'esterno. È pensabile che ci sia un disegno così razionale o secondo te è solo, diciamo, tutto frutto della storica e cronica inefficienza della PA? Se ci fosse un disegno impegno razionale sarei molto sorpreso, perché vorrebbe dire che almeno in questo la pubblica amministrazione italiana ha le idee chiare. Invece secondo me è più una cosa che avviene casualmente, ma che avviene casualmente sulla base di precisi intenti, diciamo, della singola amministrazione. Capita per esempio frequentemente che quando c'è un avvicendamento di governo il ministro in carica o il sottosegretario in carica si porta una sfilza di collaboratori con, diciamo, mansioni che alle volte sono del tutto prive di qualsiasi significato. Ricordo che è invalsa l'abitudine ormai da diversi anni di dotarsi di addetti stampa anche quando questi addetti stampa, diciamo, devono seguire un direttore generale oppure un sottosegretario. Una volta nei ministeri c'era l'ufficio stampa con il responsabile, basta. Poi a un certo punto, chissà perché, sono cominciate a fiorire queste figure all'interno di ogni struttura secondaria, per cui a un certo punto io ricordo che c'era l'ufficio stampa di ogni sottosegretario. Più c'è l'ufficio stampa del ministro, più quello del ministro e più c'è la struttura di stampa, diciamo, l'ufficio stampa interno del ministero, non è che quel... Sì, poi c'è il consulente per la comunicazione, magari del direttore generale, perché è successo anche questo al tesoro. Guardate. Ma guarda, io ti dico che è così, visto che è un caso che conosciamo da vicino facendo i giornalisti, che delle volte è difficile capire con chi stai parlando, proprio perché il numero di incarichi o di... è talmente pletorico che tu non capisci se uno fa l'ufficio stampa, fa il consulente della comunicazione del ministro, fa il portavoce, cioè diventa difficile anche per noi giornalisti capire, insomma, chi è l'interlocutore adatto, figuriamoci a livello di efficienza, non vogliono nemmeno... Vorrei però richiamare la vostra attenzione su un fatto secondo me sconcertante, che è recentissimo. La legge introdotta dall'ultimo governo Prodi, che stabiliva il famoso tetto massimo alle retribuzioni, sì, della... è stata cambiata dal nuovo esecutivo nella scorsa estate, quando è stato previsto che si sarebbero dovute emanare delle norme per regolamentare quella materia, e nel frattempo veniva sospesa quella, diciamo, disposizione che riguardava i tetti. Con quella decisione è stata sospesa anche l'obbligo di fare pubblicità sui siti internet delle varie aziende pubbliche, no? Con questo risultato che da alcune di queste importanti aziende pubbliche sono scomparsi anche dei consulenti. Se provate ad andare nel sito dell'ANAS, per esempio, che era quella che ne aveva decine e decine di consulenti, non disputo, magari poteva essere anche giustificato quel numero, per carità, però comunque sia, avevamo fino a qualche mese fa la possibilità di entrare nel sito e guardare chi prendeva i soldi dall'ANAS. Adesso questa possibilità ci è negata. Se voi entrate dentro questi siti, alcuni hanno un'avvertenza curiosissima che se volete vi posso leggere. Prego, è questo. Dice: l'articolo 4 quater del decreto legge 3 giugno 2008 convertito con la legge bla bla bla ha inserito all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 numero 244 il comma 52 bis, ed è quello, la norma a cui facevo riferimento prima. Mm-hmm. Tale nuova norma prevede che le disposizioni dei commi da 44 a 52, che sono proprio quelle che riguardano la pubblicità delle consulenze, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre del 2008. La società provvederà pertanto agli adempimenti conformemente a disposizioni che saranno contenute nel suddetto DPR. Cioè, che vuol dire? Che sì, che vuol dire? Perché? Che quella norma era previsto che questa materia sarebbe stata regolamentata entro il 31 ottobre del 2008 con un decreto. Naturalmente questo decreto non è stato fatto. Allora io ho chiesi chiarimenti all'allora ministro Brunetta, insomma ai suoi uffici, e mi viene risposto che avrebbero provveduto entro il 31 dicembre del 2008, perché avevano avuto dei problemi. Naturalmente anche entro il 31 dicembre 2008 non si è visto niente. Ora, io non vorrei che si andasse avanti all'infinito con questo meccanismo, con due, diciamo, conseguenze. Il primo è che quel tetto comunque è definitivamente saltato, siamo d'accordo. La seconda però è che nessuno, torniamo alla situazione precedente, quando tutto quanto era coperto da questa meravigliosa nebbia dietro la quale poi sì, che è quello che denuncia oggi il Presidente della Corte dei Conti. Io ricordo che quel tetto fu introdotto dal governo Prodi, che noi criticammo anche aspramente per il numero di sottosegretari, ministri presenti nel governo, ma fu introdotto anche a seguito di quella vostra campagna, non campagna perché era un libro fatto da te, da Gian Antonio Stella, e cioè La Casta, in cui si diceva non è possibile che vi siano tutte queste consulenze, questi stipendi, diamo un tetto anche alle consulenze. Siccome, cioè, è facile stare all'opposizione, ma adesso che è al governo centrodestra, l'invito va al ministro Brunetta, chiaramente, come ricordava Sergio Rizzo, rendete operativa, tornate a rendere operativo quel tetto, se vi credete, se il tema della, diciamo, della casta della pubblica amministrazione ha ancora un senso. In una battuta, Sergio Rizzo, perché sto sforando ogni tempo consentito, l'iniziativa del ministro Brunetta di mettere online i costi delle consulenze, quindi si è in questo modo vanificata o no? Ho capito male? No, perché quelle lì erano consulenze che già erano comunque previste dalla legge. Io sto parlando delle aziende pubbliche, questa, certo, è un'altra cosa. Cioè, le aziende pubbliche da adesso, diciamo dalla scorsa estate in poi, non hanno più l'obbligo di mettere sui siti le consulenze. Questa è la cosa, secondo me, più incredibile. Per quanto riguarda l'elenco invece delle consulenze che pubblica il ministro Brunetta, che riguardano tutte le amministrazioni pubbliche che comunicano questi incarichi, c'è anche lì, c'è da fare un discorso che naturalmente potremmo fare un'altra volta perché ora non c'è tempo, ma quelle consulenze lì ce ne sono, diciamo, una parte modesta rispetto a quelle vere, perché come avete detto anche voi moltissime amministrazioni non comunicano i dati. Ma soprattutto altre amministrazioni comunicano delle cose che non hanno niente a che fare con le consulenze, per cui dentro ci sono per esempio gli incarichi che le società dei comuni svolgono per i comuni, oppure che i progettisti di opere pubbliche svolgono per gli assessorati alle opere pubbliche, che quelle sono, diciamo, non possono essere considerate consulenze come noi, secondo la nostra accezione. Vabbè, guarda, facciamo una cosa, Sergio Rizzo, cercheremo anche il ministro Brunetta, che è stato nostro ospite altre volte, per capire come si possa poi sollevare questa cappa di nebbia denunciata oggi anche dal Presidente della Corte dei Conti, proprio zona d'ombra sulle consulenze, sapendo che si va a toccare un tema delicatissimo, perché da un lato c'è stato anche un indebolimento di alcuni corpi tecnici della pubblica amministrazione, dall'altro, dietro molte consulenze, e lo dobbiamo ridire, si nasconde anche uno scambio di favori, una scelta, e su questo la politica in generale tende a essere molto sensibile. Grazie a Sergio Rizzo del Corriere della Sera. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non possiamo continuare sul tema delle consulenze della pubblica amministrazione. Molti di voi hanno ragione nel ricordare anche un caso che sta a cavallo tra scambio clientelare, corruzione mafiosa o di carattere camorrista che sia, sono i casi delle ASL di Reggio Calabria e di Palermo, perché da quando ne parlammo 2-3 settimane fa, da quando alla ASL di Reggio Calabria c'è un commissario che se non ricordo male un generale, un ufficiale dei carabinieri, un generale dei carabinieri, i costi dei servizi sanitari sono calati del 50%, ripetiamo, non è che forniscono meno servizio, ossia il pacco di cerotti che costa normalmente 20 euro la ASL di Reggio Calabria lo pagava 3.500 euro per un pacco di cerotti evidentemente firmati, griffati, e poi ancora servivano 6 nuovi camici, ne hanno ordinati 2.800 di camici al Carnevale di Venezia, diciamo, potrebbero essere riciclati. A Palermo, da quando c'è l'amministratore giudiziario, i costi della ASL di Palermo sono crollati di quasi il 90%, cioè per la TAC si è scesi da 128.000 euro a 9.000 euro per la stessa TAC, con la stessa macchina e, diciamo, non con lo stesso paziente, ma con questa tipologia di lavoro. Ma insomma, queste cose si commentano da sé, e non vorrei, diciamo, diventare così eccessivamente volgare. Parliamo della borsa: meno 0,7% il MIBTE, meno 1% l'S&P MIB, meglio decisamente le altre borse europee, più 0,2% Parigi, mezzo punto percentuale di rialzo su Francoforte, lo 0,7% lo guadagna l'America, mezzo punto l'ha guadagnato Londra, Milano quindi perde a differenza delle altre borse europee, e i motivi si chiamano Seat pagine gialle meno 6,6, Telecom meno 4,7%, poi anche altri. Vi anticipo che di Pirelli e di Edison parleremo nella seconda parte, perché avremo un approfondimento proprio sui piani industriali di Pirelli e sui dati di Edison. Paolo Paronetta, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, lascia l'amministratore delegato di Seat Maiocchi, Luca Maiocchi, e il titolo inizia a calare da ieri. Sì, esattamente, anche oggi i titoli a Piazza Affari hanno risentito dei postumi, insomma dell'addio di Maiocchi, anche se il manager si è detto disposto a rimanere fino a giugno, comunque il mercato sconta l'incertezza dovuta alla mancanza di una guida salda alla testa del gruppo. Oggi i titoli hanno perso il 6,56% e risentono anche dell'effetto psicologico del raggruppamento delle azioni 1x200 che sarà effettivo a partire da lunedì. I titoli oggi sono stati i peggiori del listino tra le blue chip e per quanto riguarda la successione di Maiocchi al momento l'ipotesi principale secondo gli operatori di mercato resta quella del direttore generale Massimo Castelli, ma dalla società non ci sono ancora indicazioni precise. E si va a vendere. Telecom Italia ha smentito che c'erano ipotesi di una mancata distribuzione del dividendo, eppure il titolo perde 4,6. Sì, il titolo fin da questa mattina ha risentito di questa ipotesi di un azzeramento del dividendo. La società ha comunicato che ogni decisione sul dividendo sarà presa nel CDA del 27 febbraio, ma sul mercato resta questa ipotesi. Secondo indiscrezione di stampa, alcuni sondaggi tra i grandi soci iniziano ad avvalorare l'ipotesi di un possibile azzeramento del dividendo per rafforzare la situazione del gruppo. Ogni decisione appunto non è stata presa, ma sul mercato un timore del genere ovviamente ha fatto scendere il titolo in calo del 4,65%. Ancora un titolo, poi il resto lo facciamo dopo il GR. Tra i migliori invece, perché sennò parliamo solo dei peggiori, ma tra i migliori nell'S&P MIB c'è A2A più 2,4%, Fondiaria guadagna il 2% e poi Italcementi più 1,6% come Impregilo e Fiat, Tenaris un punto e mezzo come Saipem che oggi ha distribuito dei buoni dati, Mediolanum più 0,8%. A2A. Sì, A2A oltre a beneficiare delle caratteristiche difensive come tutto il settore utility in una situazione generale di incertezza, oggi è stata premiata da indiscrezioni anche sul dividendo, ma questa volta in senso positivo. In particolare già ieri erano circolate ipotesi della distribuzione di un extra dividendo da parte di A2A o comunque di un aumento del payout rispetto all'anno passato. A2A già ieri aveva comunicato che il consiglio di gestione del gruppo si riunirà il 25 marzo e solo in quella sede sarà definita la raccomandazione sul dividendo, ma secondo le ipotesi degli analisti è possibile appunto un aumento del payout e anche oggi i titoli hanno beneficiato di queste ipotesi chiudendo in rialzo del 2,47% appena sotto gli 1,5 euro. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare e concludere l'approfondimento sulla borsa con i casi Pirelli Real Estate, poi anche il tema energia, bilancio di Edison e crollo nei consumi energetici a gennaio, mai così forte un calo dal 1975 dovuto al rallentamento / recessione dell'economia. Allora, in collegamento c'è ancora Paolo Paronetto di Radio Cori, Sole 24 Ore. Paolo, dicevamo prima di arrivare a andiamo subito a Pirelli, che è l'altro caso della giornata, oltre a Telecom che tu citavi, a Seat, Pagine Gialle di cui abbiamo parlato. In una battuta però, se riesci a dirmi prima Autogrill meno 4,5%, poi abbiamo tutto il tempo per Pirelli. Sì, per quanto riguarda Autogrill è stata anch'essa per tutta la seduta tra i titoli peggiori, non ci sono state notizie particolari, in ogni caso la società, i titoli hanno perso il 4,55% a 4,61 euro. Per quanto riguarda invece Pirelli, in poche parole, il mercato è stato abbastanza freddo sulla presentazione del piano, i titoli hanno perso l'1,57%, ma bisogna dire che hanno risentito anche delle prese di beneficio dopo che ieri avevano guadagnato il 3,2%. Le vendite in ogni caso nel gruppo Pirelli hanno colpito in modo particolare la controllata immobiliare Pirelli Real Estate, che ha perso il 9,32% a 3,65 euro. Di primere le quotazioni del titolo è stato in particolare l'annuncio di un aumento di capitale a sorpresa inatteso dal mercato di 400 milioni, mentre per quanto riguarda invece le quotazioni della controllante Pirelli, gli analisti segnalano che a deprimere oggi il titolo è stato soprattutto l'annuncio che sull'esercizio 2008 non sarà pagato alcun dividendo, mentre secondo il presidente Marco Tronchetti Provera è possibile un ritorno della cedola per quanto riguarda l'esercizio in corso 2009. E allora ascoltiamo anche dalla voce dello stesso Tronchetti Provera alcuni passaggi del piano industriale. Tu già ne avevi anticipati alcuni. Da un lato un aumento di capitale su Pirelli Real Estate, in cui ascoltiamo proprio il passaggio su Pirelli Real Estate, in cui tra l'altro Marco Tronchetti Provera ha anche sottolineato che vi sarà una riduzione di dipendenti, riguarderanno 800 persone su Pirelli Real Estate, mentre complessivamente per quello che riguarda la Pirelli pneumatici, la parte pneumatici, vi saranno altri 1500 dipendenti in Europa occidentale nei prossimi 3 anni a perdere il posto di lavoro, e quindi la razionalizzazione sono 1500 sui pneumatici, 800 invece su Pirelli Real Estate. Distinguiamo fra quelli contrattati e quelli fatti. Buona parte, cioè la quasi totalità, sono già stati oggetto di negoziato e sono, diciamo, solo in via di implementazione. C'è una parte minore che è ancora da definire. Comunque i tagli sono quelli che abbiamo indicato e sono tutti legati ad accordi sindacali o con le persone a seconda dei casi. Nell'immobiliare sono quasi tutti fatti. Per l'immobiliare abbiamo avuto già una riduzione di 1500 persone conto tenuto del cambio di perimetro, però a cui si sono aggiunte 750 persone di riduzione vera di organico. Questa è già stata quasi tutta effettuata. Così Marco Tronchetti Provera sui dipendenti sia della divisione pneumatici che di Pirelli Real Estate, che è quella attiva, lo ricordo, nel mercato immobiliare. Tu, Paolo Pronto, citavi il fatto che era abbastanza inattesa la decisione presa poi su Pirelli Real Estate, cioè 400 milioni di aumento di capitale. Sappiamo tutti che il mercato immobiliare non va bene, e infatti 800 esuberi entro fine 2009 su 1500 dipendenti è tanto. Il titolo oggi ha perso tantissimo, però il peggior titolo del listino, meno 9,3%. Cos'è che non è piaciuto su Pirelli Real Estate? Il fatto che non si siano comprate azioni sul mercato e si sia ricorso all'aumento di capitale? Sì, secondo i primi commenti a caldo degli analisti è proprio questo, insomma, un aumento di capitale da 400 milioni che tra l'altro sarà portato a termine per quanto riguarda la parte che sarà offerta in opzione al controllante Pirelli, in parte con conversione di crediti e quindi non con l'immissione di risorse fresche. C'è anche da dire che anche l'importo dell'aumento di capitale ha stupito qualcuno, tenendo conto che Pirelli recapitalizza in borsa 155 milioni, quindi la ricapitalizzazione è decisamente consistente. Sì, sì, occorre capire come mai un titolo che appunto in borsa vale 150 milioni chiede 400 milioni di aumento del suo capitale, cioè quasi 3 volte il valore di borsa, non comprando azioni sul mercato, abbastanza a sorpresa, e poi appunto annunciando anche 800 esuberi o razionalizzazione, come si dice in gergo, entro fine 2009. Il titolo appunto ha perso un altro 9%, 9,3%. È chiaro che il mercato, quando non capisce, va a vendere, vorrebbe capire meglio quale sia la situazione poi patrimoniale complessiva di Pirelli Real Estate. Altro fronte che riguarda Pirelli, le sue partecipazioni. E tra l'altro non vorrei dimenticare i dati di oggi su Pirelli, perché oggi veniva presentato tutto il piano industriale, per cui Pirelli non distribuirà dividendo nel 2008, ma questo, insomma, era abbastanza atteso. Il titolo Pirelli ha perso l'1,2%, lo dico a chi ci scrive. Il 2008 si è chiuso con ricavi pari a 4 miliardi e 600 milioni, in linea con il 2007. Posizione finanziaria netta è passiva, cioè è in rosso per 1 miliardo di euro. E ancora risultato operativo pari a 44 milioni. Pirelli, lo ricordo, è per esempio nel settore dei pneumatici leader a livello mondiale nella fascia alta e comunque il quinto gruppo al mondo. Le partecipazioni di Pirelli, soprattutto le quote in Telecom Italia, di cui è ancora l'1,3%, e quelle in CAI, quindi la nuova Alitalia al 2%, RCS al 5%, Mediobanca 1,8% e poi la Eurostazione col 32%. Sentiamo, Tronchetti Provera ha definito cedibile la quota in Telecom, non cedibili quelle in Rizzoli e in Mediobanca, e ha anche annunciato che la quota in Telecom Italia è stata svalutata, cioè uno, un'azione la compra a un certo livello, se poi quell'azione perde in portafoglio, a bilancio devi mettere quanto ritieni valga a quel punto quella partecipazione. Il valore di Telecom Italia è il valore al 31 dicembre, noi non siamo parte della società che oggi ha il maggior pacchetto di Telecom Italia, quindi non c'era ragione di non svalutarlo per questo, ed è un pacchetto in vendita, quindi essendo un pacchetto di trading l'abbiamo svalutato a prezzo di mercato del 31 dicembre. E poi, sempre dalla conferenza stampa di Marco Tronchetti Provera, nessun motivo per ricapitalizzare la Camfin, cioè la parte alta che controlla Pirelli, e anche su questo vi faremo sentire un passaggio, mentre escluso un collocamento in borsa della parte pneumatici di Pirelli Tire, ha detto non ci serve collocare in borsa Pirelli Tire, e sempre Marco Tronchetti Provera ha anche escluso l'eventuale acquisto della Continental, della tedesca Continental. Nei giorni scorsi erano circolate queste voci. Allora, come promesso, ultimo passaggio che facciamo ascoltare della conferenza stampa di Marco Tronchetti Provera sui conti di Pirelli, la partecipazione in Telecom, il bisogno di far cassa. E proprio su questo tema Tronchetti Provera ha negato di avere bisogno di far cassa quotando la Pirelli Tire, e tra l'altro su questo non abbiamo bisogno di fare nessuna offerta di collocamento, nessuna IPO. Non c'è nessuna IPO in vista, non abbiamo bisogno di fare cassa, abbiamo una società che è liquida a livello di corporate, perché se aggiungiamo i 100 e rotti milioni di cassa a quelli che ci tornano indietro da parte di real estate, su cui dai 540 scenderemo a 400 milioni di impegno che dovrebbero scendere di altri 150 milioni, ci troviamo ad avere 250 milioni di cassa. Se valutiamo poi gli asset in Telecom Italia che vogliamo dismettere appena sarà possibile, e le altre attività minori, ma la sola attività di il 5% della parte sottomarina con la Catel vale circa 50 milioni, quindi se mettiamo insieme queste partecipazioni ci troviamo a livello di corporate con oltre 400 milioni di liquidità. E dal gruppo Pirelli passiamo ai gruppi energetici, o meglio ai consumi di energia nel nostro paese. Perché non solo oggi Terna ha diffuso il dato sul consumo elettrico a gennaio, meno 8,5%, il maggior calo dal 1975, e chiaramente non perché gli italiani hanno acceso meno lampadine, ma perché le industrie hanno prodotto di meno, lavorato di meno e quindi consumato meno energia elettrica. Dello stesso tenore anche il dato fornito dall'Unione Petrolifera Italiana, calo dei consumi nel gasolio è crollato nel mese di gennaio, meno 8% rispetto al gennaio precedente, anche qui non è immaginabile che a gennaio semplicemente si sia cambiato l'utilizzo del riscaldamento. Cosa è successo? Viaggiano meno camion, infatti il gasolio da autotrazione ha avuto un calo dell'8,5%, circolano anche meno taxi, scrivono alcuni di voi, è giusto? E forse qualche italiano si è spostato un po' di meno. Fatto sta che il calo è di quelli bruschi, meno 8,5% anche sul gasolio come consumi rispetto a un anno prima. E di questo ha parlato la nostra Valeria De Rosa con l'amministratore delegato del gruppo Edison, Umberto Quadrino, visto che oggi Edison ha diffuso anche i dati. Aumentano i ricavi a 346 milioni, aumentano del 33%, il dividendo è confermato a 8 centesimi per il risparmio e 5 centesimi per le ordinarie, ma lo stesso Quadrino riconosce che anche Edison nota un calo nei consumi elettrici. Direi che tutti i parametri di carattere gestionale sono in progresso e in miglioramento tra 2007 e 2008. il fatturato cresce del 33%, il risultato operativo cresce del 2,4%, fino al profitto prima delle imposte che aumenta del 6,3%. Il risultato netto è invece in decrescita per problemi fiscali. C'è stata la cosiddetta Robin Hood Tax, ben conosciuta, ci sono stati altri provvedimenti fiscali proprio col decreto di fine anno, e l'anno scorso c'era stato peraltro una riduzione di aliquote. Vi ricordate che c'era stato un effetto fiscale positivo nel 2007 e quindi che aveva provocato il rilascio di alcune riserve fiscali di tasse differite. Quindi il 2007 aveva avuto un carico fiscale particolarmente leggero, il 2008 un carico fiscale particolarmente pesante, e questo spiega tutta la differenza di risultato netto, che è diminuito da 497 a 346. Il 2008 è un anno che si può descrivere con due scenari: fino a settembre è stato un anno positivo e poi un quarto trimestre molto negativo per l'andamento dei parametri macroeconomici, una riduzione della domanda violenta nell'ultimo quadrimestre, anche nel settore elettrico, che di solito è un settore che quasi non risente delle crisi economiche, e una riduzione dello scenario petrolifero. Ricordiamoci che il petrolio era intorno ai $150 al barile ancora a luglio ed è crollato ai livelli che conosciamo nell'ultima parte dell'anno, ai minimi degli ultimi 5 anni, quindi con una oscillazione di oltre $100 al barile. Non si era mai verificato in un periodo così breve un'oscillazione così violenta. Nonostante questo appannamento che c'è stato nell'ultima parte dell'anno, i risultati complessivi dell'anno hanno un fatturato in crescita del 33%, direi grosso modo è stato un aumento relativo allo scenario del petrolifero, che è stato molto positivo nella prima parte dell'anno, quindi i volumi grosso modo sono stati uguali all'anno precedente, tutto inflazionato dal più alto valore del petrolio, del gas e dell'elettricità. Lei parlava di dati molto negativi per quanto riguarda l'ultima parte dell'anno. Oggi arrivano anche dati negativi per quanto riguarda il primo mese dell'anno nuovo. I consumi elettrici a gennaio hanno segnato delle flessioni. Abbiamo dei dati diffusi da Terna dell'8,5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Pesante flessione anche per quanto riguarda i consumi petroliferi, sempre nel mese di gennaio. Ma guardi, come dicevo, l'ultimo trimestre è stato una forte contrazione, la domanda elettrica è scesa del 5% ed è un dato effettivamente eccezionale. Soprattutto i mesi novembre e dicembre sono stati 6,5% in meno rispetto all'anno precedente. Teniamo presente che la domanda residenziale e la domanda dei servizi è molto costante, quindi non credo ci siano state riduzioni significative in questa domanda, che rappresenta circa il 60% della domanda complessiva, quindi sono, è proprio l'industria che ha avuto un andamento molto negativo nell'ultima parte dell'anno, ed è la stessa cosa che si è verificata a gennaio, anzi 8,5%, dicembre era 6,5%. Non dimentichiamo però, dicembre e gennaio le industrie, soprattutto al nord, hanno fatto molta cassa integrazione, ci sono state le chiusure di fine anno, di Natale e fino all'Epifania molte aziende non hanno ripreso, alcune hanno ripreso ancora dopo, quindi direi che il dato di gennaio non lo considererei come dato di parametro per l'intero anno. Cosa sarà l'andamento dell'anno? Ma noi riteniamo che è difficile che la domanda di elettricità sia allo stesso livello del 2008, può darsi che ci sia un 1-2% di riduzione, domanda globale, quindi la domanda industriale sarà più bassa, ma tenuto conto che la residenziale e i servizi sono un buono stabilizzatore, la domanda globale dovrebbe scendere dell'1-2%, che è abbastanza in linea con le previsioni correnti di andamento economico dell'economia italiana. Beh, certo, se ci fosse un aggravamento delle condizioni generali dell'economia italiana, beh, anche la domanda elettrica dovrebbe risentirne, ma riteniamo che sia già abbastanza severa una previsione di riduzione del reddito nazionale intorno al 2,5% e quindi della domanda elettrica tra l'1 e il 2%. Per tornare a voi, conferma del dividendo comunque? Abbiamo confermato il dividendo perché i risultati operativi sono in crescita, il risultato prima delle imposte era in crescita, la riduzione, ripeto, è un puro fatto fiscale, era giusto remunerare gli azionisti come l'anno precedente. Puntiamo ad un 2009 che, al di là dei fatti straordinari o una tantum che si sono verificati nel 2008, confermi i risultati complessivi, i risultati gestionali. È un obiettivo estremamente ambizioso perché il contesto di domanda è in calo e c'è una compressione dei margini, perché quando la domanda diminuisce e l'offerta invece cresce perché continua ad arrivare sul mercato nuova capacità produttiva, è logico che ci sia una compressione dei margini. Così Umberto Quadrino, amministratore delegato del gruppo Edison, intervistato dalla nostra Valeria De Rosa, e insomma conferma tutto il calo di gennaio, che ripeto, come diceva anche Quadrino, è un calo da attribuirsi alla frenata brusca, meno 12% della produzione industriale dell'industria, non a un cambio di abitudini nei cittadini quanto a consumo di elettricità o di gasolio. E attenzione, perché non si può nemmeno dire che fosse cara l'elettricità, il prezzo della benzina e del gasolio e del petrolio in generale era basso a gennaio, appunto $40 il barile. Il motivo si chiama crisi, e meno camion, meno ore lavorate nell'industria sono temi che purtroppo trattiamo ormai da 2-3 mesi, da quando i geni della finanza mondiale ci hanno fatto precipitare in questa situazione. Grazie e un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Paolo, ci risentiamo dopo il GR.